24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano in questa edizione l'inchiesta dell'Unione Europea sugli aiuti concessi dall'Italia alle zone colpite da calamità, le polemiche per le dimissioni dell'ex commissario alla salute e il forum sui giovani del vecchio continente. Aiuti alle imprese delle zone colpite da calamità. L'Unione Europea mette sotto inchiesta l'Italia per le agevolazioni fiscali concesse alle aziende nelle aree danneggiate da alluvioni o terremoti. Un'indagine che va dal 1900 fino al sisma dell'Aquila. Il quadro da Bruxelles, da Antonio Pollio Salimbeni. La Commissione Europea ha aperto un'inchiesta approfondita per verificare se le misure che l'Italia negli anni, diciamo fin dal 1990, arrivando ai giorni nostri, ha deciso per ridurre le imposte e gli oneri previdenziali alle imprese nelle zone colpite da calamità. Parliamo, per intenderci, dal terremoto in Sicilia del 1990 alle inondazioni nel nord Italia del 94, fino poi anche al periodo 2007-2011, ricordiamo i terremoti dell'Umbria, delle Marche del 96, Molise e Puglia nel 2002, gli Abruzzi nel 2009. In sostanza la Commissione Europea ritiene che le misure di sgravi fiscali e previdenziali siano state troppo generali, siano state spalmate nel tempo per un periodo superiore ai 3 anni e quindi non siano giustificate da fatti eventi specifici. E restiamo a Bruxelles, dove tiene banco la polemica per le dimissioni del commissario alla salute. Mi sono dimesso, ma a chiedermelo è stato Barroso, lo annuncia John Daly, il commissario europeo per i diritti dei consumatori e la tutela della salute, in un'intervista trasmessa poi su YouTube. Daly ha lasciato l'incarico sull'onda di un'inchiesta del servizio antifrode europeo. Un'azienda del settore del tabacco svedese infatti lo ha accusato di un tentativo di concussione per facilitare la legalizzazione in Europa dello snus, il tabacco da masticare. Ci sono numerose prove che Daly fosse a conoscenza della macchinazione e che insistesse usando il suo nome per avere vantaggi finanziari, spiega il direttore generale del servizio antifrode Giovanni Kessler. L'ex commissario però respinge le accuse. Saranno i 3 presidenti a ritirare il Nobel della Pace assegnato all'Unione Europea. Van Rompuy, José Manuel Barroso e Martin Schulz andranno ad Oslo dunque per la solenne cerimonia, come ha confermato lo stesso Schulz. Raddoppiare gli sforzi per attuare il patto per la crescita è la richiesta del presidente della Commissione Barroso ai leader europei alla vigilia del summit che termina venerdì. E siamo alla giornata in borsa. La ventata di ottimismo di Moody's sulla Spagna e il conseguente calo degli spread periferici ha spinto ieri le borse europee, in particolare Milano, con il FTSE MIB che ha recuperato l'1,5%. Meglio in Europa ha fatto solo Madrid, più 2,4%. A Piazza Affari, con il calo dei rendimenti obbligazionari, volano i titoli bancari a partire da Mediobanca, più 5%, e Montepaschi, più 4,7%. La migliore, tuttavia, è A2A, più 7,6%, grazie le scommesse degli analisti che ipotizzano un dividendo più contenuto per abbattere il debito. Forte rialzo anche per Autogrill, più 3,6%, che tocca i massimi da aprile dopo il rinnovo della concessione Food and Beverage per l'aeroporto olandese di Schiphol, che frutterà ricavi pari a circa 2 miliardi dal 2013 al 2027. Recupera terreno anche Fiat, più 3,6%, mentre in coda al listino i realizzi colpiscono Impregilo, il giorno dopo che il CDA ha autorizzato la vendita del 50%. Il giorno dopo che il CDA ha autorizzato la vendita del 19% di Ecorodovias. Sul resto del listino schizza Cape Live, più 45%, dopo l'omologa del concordato preventivo. Ciò Condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore. I giovani e l'Europa, la disoccupazione e la disaffezione dalla politica. Dei progetti di investimento sui giovani europei si parla a Bruxelles in un dibattito col commissario alla gioventù. Ci siamo anche noi, allora colleghiamoci con Bruxelles con Gigi Donelli. 96 milioni di giovani, questo è il numero dei giovani europei in un continente dunque di 500 milioni, il 20% sono rappresentanti da ragazzi, ragazze, uomini e donne tra i 13 e i 30 anni. Ecco, oggi a Bruxelles, al Parlamento europeo, un'occasione di incontro con il commissario Androulla Vassiliou. Si parla attraverso il dibattito di Connect Europe, quindi attraverso Euronet per quanto ci riguarda, di educazione, di cultura, progetti e aspettative per i giovani. Noi ne parliamo con Letizia Gambini, che è la del Forum Europeo della Gioventù. Allora Letizia, cominciamo a ragionare su quelle che sono le priorità partendo magari dai grandi temi che riguardano l'educazione, la formazione e direi decisamente il budget 2014-2020. Sì, esatto, è un tema essenziale in questo momento, chiave per l'Europa in perenne crisi, è la decisione su come impostare il budget 2014-2020 dell'Unione Europea. Lo European Youth Forum, il Forum Europeo della Gioventù, chiede 20 miliardi di euro di investimenti per i prossimi 7 anni nei programmi diretti a gioventù, educazione e formazione e il 10% di fondi in tutti i programmi europei dedicati a giovani, parliamo di fondi regionali, fondi sociali europei, agricoltura e ricerca, perché investire nei giovani è l'unico modo per avere un risultato a lungo termine che ci faccia uscire dalla crisi. Il budget dunque innanzitutto, e poi si parla anche di rappresentatività. Tra 2 anni, dunque nella primavera del 2014, il voto per il Parlamento europeo, i dati che voi ci avete fornito indicano innanzitutto che i giovani europei votano poco. Se nella media la partecipazione appunto di tutti i 500 milioni di cittadini coinvolti viaggia intorno circa al 50%, per quanto riguarda i giovani si dimezza, solo un giovane su 4 ritiene dunque interessante partecipare al voto. D'altra parte voi avete una proposta che riguarda addirittura l'abbassamento dell'accesso al voto, di cosa si tratta? Sì, stiamo promuovendo da diversi anni l'idea di un abbassamento del voto, dell'età di voto a 16 anni, perché crediamo che la politica di oggi non parli abbastanza ai giovani. I giovani non contano, non votano, iniziano a votare troppo tardi. Per cui proponiamo uno sviluppo di politiche che vadano a contrastare questa mancanza di partecipazione delle giovani della popolazione più giovane dell'Europa, con anche un potenziamento dell'educazione civica nelle scuole e uno strumento di partecipazione che parta dall'età di 16 anni, quindi prima di oggi, come si fa già in Austria dal 2006, in cui i giovani dai 16 ai 17 anni possono votare anche loro. Un numero che invece purtroppo è salito regolarmente in maniera preoccupante negli ultimi tempi è quello che riguarda l'occupazione, anzi la disoccupazione giovanile. A questo proposito il Forum Europeo per la Gioventù ha qualcosa da dire. Quali sono le vostre proposte? Sì, noi crediamo che ci siano sicuramente molti passi da fare e molti impegni da prendere da parte dei nostri governi e dell'Unione Europea. 2 proposte in particolare per garantire l'azione su 2 problemi essenziali. Uno, il tema degli stage. Oggi un cancro del nostro mercato del lavoro è lo sfruttamento del lavoro giovanile attraverso la forma dello stage non pagato, dello stage sottopagato. Chiediamo ai nostri Stati membri e all'Unione Europea di sviluppare una carta europea degli stage di qualità che permetta agli stage di diventare uno strumento di qualità educativa per facilitare la transizione tra educazione e mercato del lavoro. La seconda proposta è quella di investire nei giovani che ad oggi sono al di fuori del mercato del lavoro, al di fuori dell'educazione, al di fuori della formazione permanente. Abbiamo calcolato che investendo 10 miliardi di euro oggi in una youth guarantee che riporti giovani nel mercato del lavoro che non sono adesso, si possa portare immediatamente 2 milioni di giovani nel mercato del lavoro ad oggi. Quindi ecco, 2 semplici passi in avanti che possono portare un piccolo contributo per diminuire questi numeri molto preoccupanti di giovani disoccupati. Grazie a Letizia Gambini, lo ricordo, il Forum Europeo della Gioventù, una organizzazione che diciamo cerca di fare dialogare quelli che sono i numeri, lo ricordiamo, 96 milioni di giovani europei in un continente appunto di 500 milioni di persone. Bene, da Bruxelles per ora è tutto, vi ricordo soltanto che l'integrale di questo incontro tra le associazioni giovanili e il commissario europeo all'educazione Vassiliu è integralmente presente sul sito euronet.it, potete ritrovarlo attraverso radio24.it. Da Bruxelles per ora è tutto, da Gigi Donelli la linea torna allo studio. 24 ore in Europa termina qui, un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.